10. Chi è? Avanti 10. Oi, ciao Carlo. Ciao. Sì, in macchina, sì, ciao Franco da Sassari. Sì, ciao Franco, sto andando al lavoro, sono sulla 291 Alghero Sassari, appena iniziata. E non è una buona zona per me. E come mai, come mai? Sono coperto, perché l'antenna è, diciamo, dalla parte opposta del palazzo. E come mai dalla parte opposta? C'ho una finestra, capito? Non è sul tetto, ti ricordi? Giusto. È sempre lì. Qua mi stai arrivando con un bel segnale, qua, Radio Super 5, capito, Radio 5 e i LED me li accendi tutti. Lo so, ma io sto usando qualcosina, dai. Anche io adesso c'ho qualcosina, perché sennò con questa radio che ho in macchina non è che vado forte, capito, è giusto un aiutino. Si sente che è un po' compressa la radio, prima uscivi più, era più chiara la radio, però purtroppo ci vuole anche un po' di segnale. Esatto, se no non vai lontano. Provi a abbassare un po' i watt dell'apparecchio. Purtroppo questi, in questo apparecchio non si possono abbassare i watt. Già devo sistemare l'altro che ho aggiustato di apparecchio qua da sistemare, però a volte mi manca sempre il tempo per farlo. Li puoi abbassare dall'interno, a meno che non sia in garanzia. No, negativo, non è in garanzia. E allora basta un cacciavitino e un wattmetro, li abbassi leggermente. Io qua ho fatto così, ci ho rimesso qualche watt di potenza in uscita, però la radio esce bene. Proverò, magari devo individuare il trimmer da regolare, da passare a vela. Che proverò. Adesso ti ho perso, ho capito che ci proverai, ma stanno arrivando anche di propagazione e ti stanno un po' coprendo. Sono qua, sono... Ho sentito il bip, Carlo, io ti saluto perché non ti ascolto più, mi dispiace. Non so se c'hai qualche... più avanti, se magari aumenta un po' il segnale. No, negativo, Carlo, se mi ascolti, dai, buon trabacco, buon tutto. Qui. Chi è avanti? Ciao Franco, ciao Carlo, Marco da questa parte, in passaggio lontano che sto per uscire a fare di shopping, dai. Capo, volevo accompagnare a Carlo, ma c'è un po' di propagazione e purtroppo non avendo l'antenna sul tetto non lo sento più. Bassino, poi la propagazione è quello che frega. Vediamo se Carlo arriva qua. Carlo, prova a parlare. Ciao Franco, ciao Marco, ciao. Santiago 6. Sento anche a te molto bene. Cappa, arrivi Santiago 6, non so dove tu sia arrivato, io ho acceso adesso, sono entrato a prendere delle chiavi e della roba e poi sto riuscendo. Cappa Marco, ben sentito comunque. Aspetta, sta parlando. C'è un bel po' di propagazione, anche io aspetto segnalori forti che mi arrivano qua. Per me, diciamo, è il bivio di bancati primo. Cappa, sì, primo bivio di bancali, copiato. Sì, la propagazione non è tanto il QRM elettrico, QRN con la N. Ciao Fra, ben sentito anche a te, sempre modulazione non eccellente di più, proprio perfetta, scevra da ogni timbrica strana, da ogni rimbombo, certo quel microfono vale oro. E il baracchino fa la sua parte però. È un bel connubio, mi ha sempre dato buone... buone soddisfazioni questo apparecchio, un bel connubio. Anzi, prima c'era una specie di scatoletta eco che amplificava ancora di più. Con un leggero eco era una bomba. Sì, un bel connubio. Io naturalmente, vabbè, me ne fregavo, io quelli da tavolo non li ho, cioè li stangavo molto, non tanto non li utilizzavo. Invece non dico che l'MB più 5 vada male, però quello è particolarmente fedele come timbrica, cioè a suo tempo bisognava prenderne, anche perché gli Shure erano molto più rari, molto più rari di tutti gli altri LMD, di Turner, Shure, quella roba lì. Ma Turner volevo dire, dai, già capito, Asati che volevo dire, ecco. Vai a fare compere e tu vai. Il nome è ben Natale. Ciao, ciao. Bra. A te l'immagine a questo Marco, sempre andando a fare compere. Deve essere pieno di soldi. Sta un povero come noi. È lui che ha vinto la Superenalotto, deve essere. Magari, magari. Ma non credere che puoi fare la vita di... come quelli che vanno a fare la vita e a fare i vitelloni in costa, ma per carità. Sistemerei molte amicizie, sistemerei in modo definitivo molte amicizie che hanno bisogno. Tanto tutto per uno mi sembra veramente sputare sulla povertà, per dire, però se la vincita non arriva non posso aiutare nessuno. Vabbè, aspettiamo, dai. Almeno bisogna giocare, però. Beh, se non giochi non vinci, questo è poco ma sicuro. Ma te lo immagini questo Marco, c'ha 50 baracchine e non me ne vuole prendere uno, eh? Ehi, Natalino è innamorato dell'Intec HR5005, solo che quello, porca miseria, c'ho anche il cavo di programmazione, quello è un duro colpo a darlo, eh. Ehi, vabbè, ma se lo vuole... E gli ho detto, Natali, se lo vuoi te lo compri, guarda c'è un'offertona da Media Globe, un'offertona, però ripeto, purtroppo la, come dire, la scheda credo che sia quella più piccola ancora, e quindi non è esente da difetti, io fra. Sono state varie lamentele per quell'apparato, cioè non vale, alcune, poi non lo so, sempre a fortuna mi sono questi baracchini. Eh certo, ma ormai è fuori produzione. Allora, non c'è della Intec, però c'è marcato Anitone, che poi è l'originale con l'Anitone, mi pare a roba di 17 nomi quell'apparatto, prima erano 12, poi si è ampliato fino a 17 marche che hanno rimarcato l'Anitone, tra cui Kenwood, cioè pensa che in Russia quell'apparatto era marcato dalla Kenwood, venduto come Kenwood per i 10 metri. Figurati. Guarda se ci senti ancora, Carlo. Vediamo, vediamo. Carlo, ci sei ancora? Sì, Marco. 7 arriva. Naturalmente presumo, Carlo, che tu abbia un aiuto dall'alto, come pure io, ecco, capisci? Sento ancora Franco, lo sento io a Franco. Ti sente, Fra? Io non lo sento invece, sento che parla ma non riesco a capirlo. Prima mi sa che arriva più forte, ha cambiato antenna, boh. Ma chi, lui? Prima lo accompagnavo fino al posto di lavoro quasi. Adesso glielo chiedo, Carlo, ma tu hai cambiato antenna di recente? Madonna della macchina? Certo. Sì, una frusta sto usando. Allora, Fra, una frusta nera presumo può essere dai 90 centimetri o metro, giù di lì, dai. Mi ha sentito il bip, sì, ma da poco ce l'ha, oppure non so, tipo l'anno scorso utilizzava un'altra antenna. Eh sì, credo che l'abbia cambiata da poco. Oh, Carlo, l'hai cambiata da quando? Da quanti mesi l'hai cambiata questa antenna? Da qualche settimana. La sto provando. Poche settimane. Infatti, secondo me, sarà un mio, può essere anche un mio problema, ma prima lo ascoltavo più forte, addirittura prima non aveva neanche lineare. Sì, Carlo, praticamente Franco riusciva ad accompagnarti fino al QTH di Trabacco, quando avevi l'altra antenna, con questa ti perde molto prima, diciamo, dai, nonostante magari tu sei aiutato, presumo, dai, capisci a me. Esatto, era migliorata Franco, adesso sono sul rettilineo che si porta a Tutubella. Scappa, Bivio Tutubella. Io non so neanche dove sia, però poi me lo guardo sulla cartina. Allora, Natali, a te cosa ti regalo? A parte pecunia, ti regalo un harem di donne, di concubine però, perché una è la moglie principale, le altre sono le concubine. No, a me mi devi dare il 9.900 e basta. Io ti do, ti contraccambio con qualche biglietto di quelli rossi. Eh già, va bene, a me mi basta un bel catamarano, quelli grossi d'altura, però, affinché possa girare il mondo. Ma tipo soldini, quello da fare in... no, catamarano è... Ah, ho capito, per fare il giro del mondo in solitaria, tipo. No, anche in due. Eh beh, la compagna, se no da soli è dura, cioè vabbè, uno si arrangia, ma... Ascolta Natali, comunque il 9009 è quello che uso meno, è il più brutto perché sì, c'ha watt, però non mi si vala. C'è un lieve difetto anche però, che si è creato naturalmente. Quello più usato da me è proprio il 5005 perché è più versatile, c'ha i controlli tutti frontali tipo 3009, i tastini per le funzioni principali. Invece le voci di menu, quelle voci che attivi col menu, sono cose che di solito, è come dire, tu le regoli all'inizio e poi non le tocchi più a vita, a meno che non abbia particolari, non lo so, esigenze, capito Natali? Sì, ho capito, Qual è quell'apparecchio che c'era l'offerta da Media Globe? Tanto si muove nel vino. È proprio l'Anitone, l'originale, però adesso presumo, Natali, non prendila per buona, con la scheda nuova, presumo, ed è però senza il famoso, come si chiama, DSP, quello lì, senza il DSP, col DSP costa una ventina in più. E ho capito, il 5555, quello lì, è quello che avevo io. Sì, proprio quello, però presumo la versione con l'upgrade, sempre che si possa parlare di upgrade. Aperto di canali? No, allora, in teoria credo di no, però ho visto che anche se chiede la modifica l'importo è uguale, cioè non ti chiedono niente in più, perché mi pare sia la pressione di un tasto o due all'accensione, ecco che l'hai fatto full band, diciamo, full band. Quello mi sembra vada da... forse scende anche sotto i 25, scende, fino ai 30. Sì, sì, 20, pardon, 25 spiccioli fino a 30-105, non che servano, Efra, perché... Ma questo scende ai 25, ma non c'è nessuno. Cacchio, sta trasformando pericolosamente. Vediamo se Carlo è arrivato al QTH trabacco. Non sento nulla. Carlo, mi senti? Allora Carlo, se mi copi, io ho sentito esclusivamente il bip, quindi ritieniti salutato, dai, proprio radio zero, segnale zero, solo il bip ho sentito. Ciao Carlo, saluti da tutti. Sta ancora parlando? Sì. Io sento Spagna, bro. Oh Marco. C'è una persona d'Olmedo che sta parlando con Carlo. Ah, c'è un'antenna lì dopo Olmedo, la strada vecchia. Ma quel bip che si sente tirurì, quello lì è? K. Mamma mia quanto ha scaldato sta roba. E quale? L'aiutino. Se fai botta risposta, botta risposta diventa rovente. Sentivo l'odore come di surriscaldamento mi. Avevo dimenticato la ventolina, vabbè. Ciao l'amico di Olmedo, se mi copia. Sei in baramobile o fisso K? Marco da Sassari. Non mi copia da liscio. Ma valvola c'hai? No, un transistor, quello è il problema. E come mai scalda? Aspetta. Attenzione Olmedo. K, buonasera, Marco da Sassari, mi copi? Sì, K, allora la propagazione anche qua dà problemi, tant'è che Carlo l'ho perso poco prima che tu dicessi io l'ascolto, io l'ho perso già, non è da più ascoltabile. K, buonasera, c'è anche Franco da Sassari, Franco è nominativo come da, vabbè, sa, poi me lo dire, me lo ricordi. E Natalino Alfa 1, avanti Natalino. Caspa, un attimo, sto guardando roba al computer. Vabbè, forse l'hai già visto, ti avevo mandato il link tramite WhatsApp, Natali. Ehi, Alfa, il nominativo com'era? Binario oppure... Perché Ombra era 50, no, era 50, non è nominativo tuo. No, Ombra era 50, io usavo o Freccia Rossa, visto che lavoro nell'ambito dei treni, da. Freccia Rossa non è male. in inglese sarebbe ancora più figo, Red Arrow, però non lo capiscono qua, vabbè, la pronuncia anche, Red Arrow. Invece Roberto mi chiamava binario perché sempre per il solito motivo, dai. Non so se mi ascolta Olmedo. Cappa, l'amico di Olmedo, ascolta Franco da Sassari? No. Negativo. Lo copi tu? Io sentivo quel bip, ma adesso non lo sente più, l'ha tolto quel bip, oppure era un'altra persona. Prima sentivo il bip. No, confermo, è un'altra persona, Fra. Mi pare si chiami Carlo, lo stesso ma è da Olmedo, però non ho copiato se era barra tipo pesante mobile o barra fissa, cap. Caspita, c'ho la Roma Santiago 6 di roba propagazio più QRN. Sì. Io sono un'antenna, ho visto Olmedo, rimane dopo il cimitero sulla destra, andando verso Alghero. Via. Vediamo, Natalino, adesso stacco, che si fa tardi, se no. No, non l'ha letto Natalino, ma Natalino ha già capito il sito e quindi tutta la... E quindi Natalino, ce ne sono due, confermo. Gli è arrivato anche quello con l'NRC, che sarebbe il DSP poi. E costa... Quant'è? 15 euro in più, giù di lì, dai. Cosa serve il DSP? Praticamente nei segnali bassi ti filtra il rumoraccio di fondo, è un, diciamo in quel caso è un processore, proprio un microchip che processa digitalmente l'audio, perché dubito che sia nel cuore dell'apparato, alla fine credo che sia una cosa che opera sull'audio, ma può essere anche di no, dipende, e te lo pulisce. Però naturalmente se il segnale è molto basso lo senti leggermente robotico, è presente. Però insomma riesci a comprenderlo, dai. E i prezzi come sono? Allora, della Nittone, allora quello di 555 plus, quindi senza questo microchip, 163 euro più la spedizione. Invece con l'NR o NRC o come lo chiamano, 179,99, quindi 180 contro 163. Pensavo di più, cioè, me lo ricordavo più caro. Ma infatti è un prezzaccio, sai perché? Perché l'Enipone è quella che l'ha creato, diciamo, quello che l'ha creato, e poi tutte le altre marche su ordinazione l'hanno rimarcato per tutto il mondo lo conosce quell'apparecchio. C'è roba di fino, mi pare di averle netti fino a 15 o 17 di nomi differenti di quell'apparato. Poi molto conosciuto in Europa come il 6009 della CRT francese, capito? No, è bello, se quello che ricordo io è bello, c'è un bel display retroilluminato di arancioni o blu, dipende, lo puoi cambiare. Che c'è il LED tutto a tacchette in digitale? Sì, allora il LED è cristalli liquidi, dai, io lo chiamo LED, lo smitter, cioè. Però non puoi cambiare colore. E ti dirò che l'Eniton era il meno bello di tutti quanti, perché allora, vabbè, il display, aspetta di guardare la foto, allora il display è quel rosso arancio, no? L'indicatore dei canali, adesso non mi ricordo se sia verde, anche lì, quello, il classico LED, proprio l'indicatore dei canali. E la retroilluminazione del frontale però è rossiccia, non è un granché, troppo uniforme, mentre l'Intec 5005 ha le display e canali sempre così, no? Sul rosso arancio e verde per i canali, però la retroilluminazione è bella perché ha le scritte HR5005 in azzurro, un blu azzurro, no? E poi però le scritte delle varie funzioni sono colorate verde acqua, proprio quel verdolino acqua tenue, e di notte è spettacolare, Fra, è il più bello di tutti. Ma l'hai preso tu da poco, quindi? No, il 5005 ce l'ho da anni, da quando è uscito, pochi mesi dopo l'avevo preso, e figurati, con le tasche mani bucate che ho io. Sì, ma questo che adesso è un'offerta, qual è? L'Eniton, quello con più banale, l'illuminazione rossiccia del frontale, delle funzioni, dai. Però è bello comunque, cioè, 6009 è tutto azzurro praticamente, retroilluminato è tipo così bianco-azzurro. Questo è rossiccio, però il prezzo, cioè, con 163 euro non compie nemmeno un misero Alan 48, mica solo 40 canali MFM. È vero. Allora, no, un prezzaccio, Ah, vero, chi è? È vero. Ah, vero. Ehi, No, bravo, risposto a chi? Chi è entrato? Chi è? Franco? Che è? Vabbè, riprendete che sto facendo cosa. Ciao Marco. Luca? Ma fregato Luca, credo fosse Franco. Franco California. Sì. Ebbene Natalia, hai deciso? Sto ridando dignità e giustizia. Ah, sono tanto felice che avevo il microfono. Sì, so che adesso io ho guardato vari siti, però c'è un macello perché ti mischiano le foto della vecchia versione con la nuova, certe volte qua non lo dice se ha la scheda più piccola o no, capito Natalia? Addirittura, per esempio, ampliamento banda, sì, e non ti aggiunge nessun costo, perché certi lo fanno, ma basta, è come 5-10, premevi due tasti, accendevi e passavo da 28, 30, 25, 30 MHz, per la versione base però, fra. Io ho un portatilino, quindi lo stesso, se lo accendi tenendo un altro tasto premuto, poi ti chiede un codice e si apre di frequente, aggiungi un'altra banda. Sì, che poi quando tu lo sblocchi versione base con i tasti fa tipo 26-28, però se lo programmi col cavetto puoi fare fino a 60 canali per banda, cioè praticamente tu in una banda unica puoi andare già sulla tripla 5 senza dover cambiare banda ogni volta, capito? E quindi passa, mi pare, 25 615 a 30 e 105, che vabbè sono inutili, però ce li ha. Sì, sì, hai le slot da 60 canali invece che da 40. Sì, e quindi se lo moltiplichi per 6 bande, 6 per 6, 36, cioè ne ha di più di un classico apparato a 40 così per banda, capito? Poi te lo puoi personalizzare come vuoi tu, ci puoi mettere, come ho detto io, i canali inglesi se ti interessano, quelli in FM, con quella canalizzazione strana, e ti puoi mettere lo zero finale per ascoltare i radioamatori sui 28, 28 e 4, 28 e 5, no? Così dai. C'è anche la banda FM normale delle radio, no? Ma FM intendi 8808 da ricevere, no? No, non ce l'ha. No, non avrebbe senso. Di solito c'erano i B-Banda, i Baofeng, quelli là, i VEU hanno la. Ma lì, vabbè, non avrebbe. Però. Chi voleva? Ti facevi tutt'uno in macchina, autoradio. E baracchino tutt'uno. Eh beh, non è male come idea. E nessuno ci ha pensato però, è vero, una volta facevano invece le autoradio con baracchino, cioè proprio ci aveva autoradio e presumo mangianastri più il baracchino integrato, che però era praticamente non era né carne né pesce, perché io preferisco una buona autoradio da una parte e un buon baracchino all'altra, è ovvio, no? Certo, se non sbaglio, forse Giulio ce l'ha raccontato quella storia lì, forse l'ha posseduto anche lui, una cosa del genere, radio e CB. Sì, sì, se all'ascolto te lo potrà confermare, anche lui me l'aveva detto che avevo conosciuto, ho avuto un autoradio CB, tutte e due faceva. Giulio, ci sei? Sì, ci sono, sì, sì, l'ho avuto, ma negli anni 70 era un autoradio che aveva anche CB. Buonasera a tutti. Ciao carissimo. Ciao Franco, buonasera. Sì, vi stavo ascoltando, mi sto preparando per uscire. Vabbè dai, continuate. Comunque parlo degli anni 70 quando ho avuto io. Ciao Marco, e ciao chi c'è, qualche altro, non lo so, forse Natalino. Ci sentiamo alle prossime, dai, devo uscire. Si prende pure fra. Oggi c'hai anche un leggero eco. Non ti ho mai sentito con l'eco. Comunque ben sentito davvero, dai. Un abbraccio e buona serata, buon tutto. Avanti, Marco. Deia, K Giulio, sì, e mi ricordo che ce l'avevi detto. E poi questi tipi di apparati li hanno riproposti lo stesso, fine 70, poi inizio 80, però ripeto, erano un po' né carne né pesce. Conta che all'epoca comunque si usavano ancora primi anni 80 23 canali, mi pare, e quindi in realtà in AM, cioè, ce n'era d'avanzo, se avevi autoradio e baracchino. Quelle macchinette italiane erano anche piccole, erano scatolette rispetto, che ne so, a quelle americane, quindi con una cosa, con un solo spazio, con un solo slot, come lo vogliamo chiamare, avevo due apparati, cioè autoradio e coso, però non hanno avuto molto successo. K Natalino, riprendi, io devo staccare perché si sta facendo veramente tardi e poi c'è un caldo fuori, sono 18 gradi all'ombra, se stai al sole già ti abbronzi. Ok, Natalino, riprendi, ciao. Quindi Franco, Giulio, anche l'amico di Olmedo che abbiamo lasciato in bianco non volendo, Luca, tutti gli ascoltoni e basta. Natalino, riprendi, ciao a tutti, quelletti. Natalino, c'è, ti saluto io, ciao Marco, dai, alle prossime. Ci risentiamo, un abbraccio. Luca, ci sei? Attento, Luca.